ad alta voce. Patrizia Zappamulas legge Artemisia di Anna Banti. Undicesima puntata. Questo risveglio di Artemisia, che pensa Porziella, è anche il mio risveglio. Sono scadute le franchigie della guerra, quelle libertà dello straordinario che ognuno si sentiva concesse. Ogni morto riposa nella sua tomba definitiva. L'ostinazione di Artemisia a farsi ricordare, la mia ostinazione a ricordarla capricciosamente, a sobbalzi commossi, sta diventando un gioco. E forse un gioco crudele, ma ha tradito l'urgenza con cui la vedevo, proprio la vedevo, aspettarsi da me, dopo il rimpianto d'averla perduta e la trepidazione d'averla ritrovata così viva, quel flutto inesauribile di speranza tenace di chi continua a curare un incurabile. M'ero avvezzata, contraddicendola e persino canzonandola un poco, a collocarla nel nostro tempo, a sentirla alle mie spalle, presente. Ero sicura di esserle comprensibile e necessaria. Le preparavo delle piccole sorprese, delle interpretazioni a rovescio di quel che la memoria della sua vita m'aveva suggerito. E mi pareva che lei ci pigliasse gusto, perduta per perduta. Solo oggi, ascoltando il suo lamento probabile di madre, che è stata ben viva in una notte del 1635 a Napoli, una notte vera come quella che verrà fra due ore, solo oggi mi accorgo di averle mancato di rispetto e che il suo vagheggiato consenso è da lungo tempo un'assenza. Da quando m'ha lasciata? Risalgo per le vicende di questo disperato incontro e non so fissare un punto, forse dal momento che ho abbandonato la sua infanzia, in cui, come tutte le donne di fama avventurosa, ravvivava il pegno tradito di una vita più limpida, più degna di quella che le toccò e di cui non volli liberarla per quante occasioni me ne offrisse. Era un gran dono. Chi, infatti, sui primi del Seicento ha avuto un'infanzia? Forse è rimasta sul pincio, davanti alla finestra di Cecilia Nari, o nell'atto di appuntare il primo velo donnesco alla scollatura del corpetto di panno grosso, o davanti alla spinetta dove posò ragazzina docile e segreta per Santa Cecilia e Francesco in camiciola faceva l'angelo e gli era facile guardarla con devozione di cadetto. Non la sentirò più protestare e ricusare con quel suo gergo altezzoso e popolaresco di pisano imbastardita. Non mi aiuterà più, non avrà più per le congiunture del suo vivere vero o favoleggiato le ripugnanze, i tremori che mi invogliavano a intrecciarne il ritmo e le immagini in un'azione a due, alacre e partecipata. Il gioco convulso di due naufraghe che non vogliono perdere la speranza di salvarsi su una botte. È rientrata nella luce remota di tre secoli fa e me la sbatte in faccia, accecandomi. La velocità con cui le figurazioni della sua vita si succedevano e fluivano l'una nell'altra oscilla, coagulata in quadri di lanterna magica lunare, piatti e freddi. Ecco una donna bionda, ancor giovane d'aspetto, ma vecchia nella positura e nello sguardo, seduta su una seggiolina bassa, contro il muro nudo di uno stanzone senza amenità. Piega il collo rotondo ma profondamente segnato in un atto di prostrazione inerme, quasi di doloroso assopimento. Qualcuno l'ha lasciata così, da un minuto o da giorni. Forse Diego, che è partito per Spagna. Forse Porziella, che è rientrata in convento dopo una vacanza fastidita dalla madre e dalla pittura. Provo ancora una volta a commuoverla. Dico, Porziella, stava in culla buona buona, che il suo piccolo fiato non si sentiva. Camminò subito diritta. Preferì le pupazze di stracci a quelle belle di cera. Fu in pericolo di morte per l'emetico dello stregone e in tre giorni risanò. Piangeva perdendo il respiro, ma senza umore di lacrime. Aveva quei ricciolini sul collo e sotto un piccolo neo. Nero nero. La pungo. A 5 anni Porziella già si trovava bene con le monache e si tingeva d'un rosso cupo quando le dicevano «Sei la figlia della virtuosa». Non volle imparare il disegno, neppur da Suora Assunzione, che pure era una santa. L'abaco sì, lo imparò prestissimo, e anche la storia sacra, e sapeva a memoria tutti gli ordini cavallereschi con le loro insegne, una per una. Distillava gli elisiri meglio di Suor Mattea e tenne anche i conti del monastero quel mese che la cellaria fu ammalata. Detestava i pittori, i colori, le tele. Quando era in casa nascondeva i panni ai modelli e faceva loro 1000 dispetti, vantandosene poi in convento come di opere meritorie. Ammirava i cavalieri, ma di nascosto, sempre in ascolto alle fessure degli usci e palpando il velluto dei mantelli in anticamera e strofinando l'elsa delle spade per appurare se fosse d'oro o d'argento. A 12 anni camminava con gli occhi bassi, ma sapeva dirti come ognuno fosse vestito. Non volle mai sedere a tavola con Diego e una volta gli sputò nella minestra. Artemisia non risponde. La sua lontananza è senza misura, stellare. Alla fine riconosco nella mia ripugnanza per la sua vita di Napoli, che pure le diede la fama, una sua muta suggestione. L'ho indotta a sottoscrivere i gesti di una madre sola e imperfetta, di una pittrice dal valore dubitoso, di una donna altera ma debole, una donna che vorrebbe essere uomo per sfuggire a se stessa. E da donna a donna l'ho trattata, senza discrezione, senza virile rispetto. 300 anni di maggiore esperienza non mi hanno insegnato a riscattare una compagna dai suoi errori umani e a ricostruirle una libertà ideale, quella che la affrancava e la esaltava nelle ore di lavoro, che furono tante. E ormai non so che cimentarla per farla parlare sui ricordi di una maternità infelice, il solito argomento delle donne. Voi, che tanto sapete e ricercate e insegnate delle madri e dei figli e investigate, inventate come debbano amarsi, come si allevino per farli sani e amorosi e riconoscenti e felici. E forse questa è la risposta di Artemisia, un istantaneo riflesso che mi si traduce in parole. Parole d'ironia, non stridula, ma estremamente ferma e fredda, eppure pietosa il suono della saggezza distante. Non si può, riconosco, richiamare in vita e penetrare un gesto scoccato da 300 anni, e figuriamoci un sentimento, e quel che allora fosse tristezza o letizia, improvviso rimorso e tormento, patto di bene e di male. Mi ravvedo, e dopo un anno che le rovine son rovine, né mostrano di poter essere di più o di meno di tante altre antiche, mi restringo la mia memoria corta per condannare l'arbitrio presuntuoso di dividere con una morta di 3 secoli i terrori del mio tempo. Piove sulle rovine che ho pianto e intorno a loro i suoni avevano un ovattato sgomento che il primo colpo di badile ha dissipato per sempre. Le due tombe di Artemisia, quella vera e quella fittizia, sono adesso uguali, polvere respirata. Sappiamo, una volta di più, di essere poveri. La perseveranza conviene ai poveri, per questa ragione, non più esaltata ma in segreta espiazione, la storia di Artemisia continua. Subito che il ritratto di questa signora duchessa sarà finito, Vossignoria non dubiti che attenderò al battistino e ne ho già pronta l'idea, con accidenti bellissimi di paese. Così detta, e non importa chi, la signora Artemisia, oggi, 26 luglio 1638. La lettera va a Roma, a uno di quei suoi vecchi amici e protettori che non la dimenticano, forse perché lei non si lascia dimenticare. Ma Roma, che cos'è Roma oggi? Dalle fontane ai palazzi, dalle botteghe alle chiese, le dicono che è tutta cambiata, né lei ha mai avuto occasione di rivederla. Soprattutto sono cambiati i pittori primari e ce n'è fra oltremontani e locali un subisso. Mentre detta, Artemisia alza il suo mento pieno e testardo, come se quelli di Roma potessero vederla e rispettarla. Bella donna ancora, malgrado il madido giallore delle tempie e quella piega di delusione costante all'angolo delle labbra. Le signore duchesse di Napoli a cui ha fatto il ritratto non sono molte, per verità. La corte del viceré seguita a mantenerlesi, se non ostile, indifferente. Ma questa volta Artemisia non dice bugia, ne prende la speranza per realtà. L'impegno esiste, la dama esiste e porta un nome conosciuto per feudo in Castiglia. Palazzo a Napoli, palazzo a Palermo, duchessa di Calatrava, un nome da far colpo anche a Roma, dove verrà in chiaro e sarà confermato che la Gentileschi non tratta la pittura per pretesto, è solo a servizio dei cavalieri questa falsità. A Tempatotta, come dicono scherzando anche i suoi amici, e cioè sopra i 40, orgoglio e sprezzo con un pizzico di protervia sono ancora le sue armi, se vuol difendersi e conservarsi il credito. Altre non ne conosce, anche se ogni giorno s'accorge di come queste le stanchino il viso e il cervello. Eppure ci sono giornate chiare in cui riesce ancora a parer contenta, ad esserlo, almeno a metà, mentre la gola scoperta le gorgoglia di riso franco e gli occhi le si assottigliano di buon umore, talché non si vede se la pupilla non ride più. Questa duchessa di Calatrava non è un'amica come le signore fiorentine. Il signor duca non soffre presso la moglie un pittore e, stanco di averle finora negato un ritratto, concesse un bel giorno vamos. Col primo staffiere mandò per questa Artemisia e uscì scontento e accigliato, palpandosi sul petto l'ordine di Calatrava per scongiuro non fosse la virtuosa una duegna maliziosa e corrotta. Sta donna Virginia di Calatrava nella sua gran poltrona maestosa e scomoda, composta in un rigore sonnolento che nasconde la rabbia. Lei voleva un pittore vero, un pittore spagnolo, quel Ribera famoso, per esempio. Cosa va imbrattando costei? Vuelvase, vo signoria, a mano ischierda, improvvisa la pittrice, dopo aver pensato e ripensato un complimento alla spagnola e rinunziandoci per il prevalere delle ragioni del lavoro. Donna Virginia si voltò, dura dura, e non rispose. Era giovanissima, passava appena i 15 anni, e la sua ostinazione altezzosa, di fondo vile, pareva figurata nel modo come i capelli sulla fronte bassa, punteggiata di pustolette, virgolavano uno per uno, fortissimi e nerissimi, dalla radice alla cresputa cima. Per più di mezz'ora stette muta, ma ferma no. Si guardava le mani, piccole e livide, a zampa d'uccelletto, si morse una pepita, ne uscì sangue, se lo succhiò, non smetteva di frugarsi in tasca, armeggiava col ventaglio, con la scatola delle pasticche, con la corona d'avorio infilata di lucidi teschi. Si mise persino a pregare, borbottando fitta fra le labbra taglienti e facendo un verso con gli occhi da sembrare strabica. E finalmente si attaccò al campanellone dal fiocco violetto e cominciò un tessuto di volere e non volere, di dire e disdire, sempre dura, impettita, con lo rigido, col paggio, con la nana mora, con donna Manuela, la duegna, in uno spagnolo veloce ma lezioso nelle sibilanti smorzate, e a volte ci si drizzava, presa a scapellotti dall'accento storto, la consistenza di una parola italiana asservita. Sartora, sorbetto, passeggiata. E quando lo scalpiccio, il vocio, gli inchini e le perorazioni parvero esauriti e ognuno dileguò per eseguir ordini e per disdirli, la duchessa fece un mezzo giro sulla poltrona e guardò fissa la pittrice, che con tutti i suoi attrezzi disposti in ordine, con tela preparata e carboncino, si ingegnava come poteva di lavorare. Fu uno sguardo di bestiola malefica, ghiotta e infelice, che la matura esperienza di Artemisia non si aspettava, sicché il carboncino che ombreggiava l'acuto zigomo si fermò. «Questo abito non mi gusta», disse piano e quasi con sforzo donna Virginia. «Posso cambiarlo domani?» Tanto aveva taciuto la prima mezz'ora quanto parlò la seconda, non con la vivacità dei suoi anni, né con naturalezza di gesti, ma con una sorta di ossessiva insistenza, in voce supermamente monotona, d'uccello inquieto. sul viso acerbo, scuro e lustro, alcunché di eternamente disgustato, alterava e offuscava di continuo il disegno dei tratti, lo sguardo, il bianco giovanile dell'occhio, il modulo della bocca liscia. Quasi brutale fu l'improvvisa familiarità, dopo tanto stretto riserbo, e brutale la ricchezza ingorgata delle confidenze, imposte più che affidate, sicché ne traspariva l'intenzione di signoreggiare e avvilire anche con quelle, confidenze in odore di spacconate, di invenzioni imbastite per atterrire o per atterrirsi, manie tragiche di grandezza e di orrore. Il duca è geloso come un moro, tiene spie per ogni passo che faccio, già mi ha mattato 5 amanti, il conte di Penarrieta è stato fatto a pezzi per una serenata. Bisognava vedere a Madrid i cavalieri che mi seguivano alla messa, un fiume neppure alla finestra potevo affacciarmi. Dopo quella prima squadrata, mai che la pupilla nera, quasi sempre nascosta e come stravolta nella foga del raccontare sotto la palpebra, si fermi sulla donna che, in piedi, cambia il carboncino col pennello, prepara la tavolozza, indietreggia e si avvicina alla tela. Neppure è curiosa la piccola dama di quel maneggio di strumenti nuovi per lei, o di controllare la somiglianza, la leggiadria delle proprie fattezze per la prima volta ritratte. Si direbbe non sia suscettibile al timore di non comparire di suo gusto e diversa dall'immagine che vagheggia di sé. L'attenzione di Artemisia è ormai giunta a un'interiore finezza che non manca di cogliere il segreto di questa indifferenza, l'indifferenza di chi si presta orgogliosamente a un omaggio più che non condiscenda al proprio desiderio, e mai si abbasserebbe a misurarlo. In verità, l'adulazione del pennello è male spesa e inutili i sacrifici alla realtà di quel mento goffo, di quel labbro inferiore troppo turgido e quasi già cascante. In pura perdita, Artemisia moltiplica i ripieghi cortigiani che, se anche segnasse fra naso e bocca la peluria nutrita della spagnola, costei non se ne dorrebbe. L'acconciatura della duchessa è, sulle tempie, di una crudezza trista. I capelli tirati scoprono una cute livida e si direbbe un pochetto rognosa, che la pittrice dissimula a velature sovrapposte, ed è un peccato, il tono giusto per quel tratto di natura. Lei lo ha già trovato e composto sulla tavolozza, da fare onore a un maestro. Ma tant'è, a questo è obbligato chi vuol servire i grandi. Così si conforta la Gentileschi. Il secondo giorno donna Virginia mandò l'abito preferito, tutto a galloni, che giacque inanimato sulla poltrona. Mandò anche un velo spagnolo per la testa, una rosa d'oro, certi manichetti di garza, una catena da collo, una penna verde. La penna verde fu l'ultima ad arrivare e ognuno di questi oggetti era portato da un messaggero diverso: Manuela, Pepito, il paggio, Tommaso Staffiere Napoletano e fino uno sporco ragazzo di stalla che faceva una strana figura, così cencioso fra tante magnificenze. Donna Virginia non venne, ma la sua voce agra e infantile si sentiva a due pareti di distanza. Dipingesse la pittrice, che roba da dipingere ce n'era e più ce ne sarebbe stata se ne volesse. Il peggio fu che i messaggeri vennero, ma non se ne andavano, anzi furono raggiunti dal dispensiere, dal cuoco, dalla camerera major, dietrole sino la lavandaia, e tutti parlavano senza riguardo, specie gli spagnoli, per far intendere che a Madrid e a Siviglia e anche a Burgos bisognava andare chi volesse veder pittori straordinari a centinaia. Ma a donne che dipingano, no, cosas de Italia. I napoletani si rifacevano ridacchiando di nascosto e strizzando l'occhio, ma uniti agli spagnoli in questo assedio a una donna che pretende dipingere come un uomo. Furiosamente Artemisia dipingeva, infatti, socchiusi gli occhi, sorda volontaria, badando a ripetersi che è incomodo ma onorevole servir dame d'importanza. Il sangue le saliva alle gote come quando era giovinetta, di debole complessione, e si applicava troppo. Una ciocca bionda, oro pallido per qualche capello bianco, le era scivolata sulla gota, e il capitano Don Pedro, che fu l'ultimo a entrare curiosando, dato che sua eccellenza era in campagna, disse forte, succhiandosi un dente: «Hermosa pintora!» Poi voltò le spalle e se ne andò. Ma il terzo giorno donna Virginia ricomparve e Artemisia la trovò seduta e ferma, come se mai si fosse mossa. Indossava il vestito a galloni e aveva in testa, un po' di traverso, la penna verde. Sul viso, poi, le si leggeva un'espressione nuova, quasi di scoraggiata docilità. Non si affacciarono né furono chiamati servi. Alle sue mani, prensili e scure, bastò per gingillarsi il bracciolo della poltrona su cui posavano. Fredde, malgrado la stagione, si sarebbe giurato. Tuttavia, quella solitudine della sala ricca di parati e di tendaggi, magnificamente nuda di masserizie, non era né quieta né silenziosa. Di là dalle porte spalancate e attraverso due immense sale vuote giungeva l'eco di faccende rumorose, tonfi, acciottolii, passi in corsa, grida sguaiate, rotolio di mobili rimossi e persino risa, persino canti di servi. Qualcosa si prepara, una festa, un banchetto, una partenza. Le anticamere debbono essere colme di staffieri, le dan fede un frastuono lontano e brulicante. E a momenti certe zaffate di cuoiame lordo. Ristrette nell'angolo più luminoso della sala, accanto alla sperticata finestra, la pittrice e la gentildonna sono come oggetti abbandonati, e tanto appare l'avvilimento di costei che Artemisia dà ascolto alla sua anzianità protettiva e perde di vista il suo scopo, che è di finire in tre sedute e non più il ritratto della duchessa, la quale sembra riprendersi, anzi rapprendersi nella sua puerile rigidità, e il lavoro procede. Sulla tela sono sbocciate le solite carni pallide e tumide che la Gentileschi regala alle donne, modelle di mestiere ed onore. In più, questa volta, una grondatura di sguardo non consenziente che non è stato possibile addolcire e su cui il pennello passa e ripassa con inutile insistenza. Insomma, il ritratto è finito e bisogna parlare. Vuole restar servita, Vossignoria, signora duchessa, di osservarsi le gusta il lavoro? Artemisia retrocede d'un passo, si scosta per far luogo. Donna Virginia si leva, in effetti, ma per rimaner ritta e come stralunata, è piccola di statura perché non è finita di crescere, davanti alla sua gran poltrona. Sbadiglia, si stropiccia le mani e all'improvviso ecco che piange. Piange a dirotto, con le braccia abbandonate lungo i fianchi, senza asciugarsi le lacrime che le scorrono con difficoltà sulla pelle bruna. Chiero mia madre, chiero volvere a Spagna. Quei suoi tratti ingrati, appena alleggeriti dall'estrema giovinezza, trovano nella smorfia del pianto una giustificazione e quasi una beltà. Mi madre, mormora negli ultimi singhiozzi e poi si frega forte gli occhi e si soffia il naso in due tempi con una cadenza imparata dalla balia e rimane attonita come una bambina davanti al ritratto che non guarda. Si calmi usted, signora duchessa, tenta di farsi intendere Artemisia, e intanto la guadagna una tristezza smorta e un'indistinta voglia di cancellare con la pennellessa degli abbozzi questo ritratto non bello, non somigliante, a cui nessuno tiene, né quella che l'ha dipinto, né quella che l'ha voluto, e ora non se ne ricorda più. Due povere donne. Forse l'istinto reciproco di consolare e farsi consolare sarebbe così forte che per un attimo la testa di donna Virginia si china, le braccia della pittrice accennano a sollevarsi. Se non si annunciasse di là un ritmo di passi così perentorio da dichiarare subito che avanza e non soffre indugi il padrone, a cui è lecito inquisire su tutto e tutto disapprovare. Senza un soffio né un sospiro, la dama scivola alla poltrona e ci si fissa in posa, restandole fra la gorgiera e il mento un impercettibile tremito di cui fremono i merletti. Connivente involontaria, Artemisia si riaccosta al quadro e riprende tavolozze e pennelli. Inutili precauzioni che la persona del duca, coi suoi baffi, coi suoi alti stivali e la catena di Calatrava e il mantello all'olivares, traversa da porta a porta, ma senza occhi, senza anima, per quelle due soggette, ferme nel loro angolo. Dopo un minuto, la sua voce, che quasi si rinnova a ogni impennata di irritazione, risuona di lontano. Lentamente e con un lento respiro di sollievo, la pittrice cominciò a ripulire la tavolozza e a serrare i pennelli.